Sì. Il segnale qua dice 9:10 giù di lì. Però mi sembra di sentire, non ne sono sicuro, quando non parli un po' d'alternata. No, tiene la portante senza parlare. Sì, c'è lo stesso, è la tipica, il tipico ronzio di alternata, non è forte, forte, però non dà molto fastidio alla radio. Però diciamo in sottofondo c'è. Se parli non riesco a percepirla. Sembrerebbe un pochino di meno, ma c'è. Però non, ripeto, non crea particolari problemi. Sempre la stessa, a tratto comunale. E tu come mi ricevi? In che zona sei? In caspita, Canica San Giorgio è qua, praticamente. E dovresti essere molto più forte, quindi. A meno che non ce l'ho proprio a terra, c'è qualche sacco. Ah, ho capito, sì, comunque siamo vicinissimi, dai, non so quanto sia il mio segnale, perché io sto scendo abbastanza basso, e con un apparecchio che neanche si vede per terra, per quelli piccoli, 5859, quindi è abbastanza basso, sì, devi essere proprio giù, una parte più bassa, più coperta, ho capito. Magari vuole alzata, che antenna è? Un'antenna piccola, no? È fatta da quello. No, io ho proprio la Game Master originale ed è a circa avrà una decina di metri d'altezza, ecco. E come stazionario, come fa? Vabbè, però su quell'antenna l'accordatore non ci andrebbe, dovrebbe essere già accordata di per sé. Da me ad esempio non c'è, sono all'ordine dell'1,1, 1,5 ai limiti di banda, 25-30. Sì, ho capito, sì. E anche qua lo stesso batte. Quindi bisogna stare attenti, io ho tutta la stessa in visuale comunque, tutta aperta. Fino vedo anche Usilo, parte delle montagne di Toaghe, eccetera. Quindi con visibilità, anche se non è proprio altissima la zona, comunque vedo abbastanza, ecco. Ok, no problem, se ci sono ancora ti rispondo. A dopo. E niente, figurati. A dopo.